È dal 2017 che Bruce Springsteen non suonava con la sua E Street Band, ovvero da quando era giunta al termine la serie di concerti in Oceania che aveva visto protagonista il cantante del New Jersey. Da allora, prima c'era stato uno spettacolo solista a Broadway, dove il cantante si raccontava in maniera intima suonando in maniera acustica alcuni dei suoi pezzi, e poi era venuto il Covid, col conseguente lockdown e l'impossibilità di esibirsi dal vivo. Bruce ha accusato molto questo periodo, tant'è che appena possibile è stato protagonista di numerose ospitate in concerti di altri artisti. Tra gli altri, ha suonato coi Coldplay e con Paul McCartney, quando i due si sono trovati sul palco del Festival di Glastonbury, dove l'ex Beatle suonava come headliner. Le prove per la nuova tournée sono cominciate lo scorso 9 gennaio e sono andate avanti per un mese. Il 1 febbraio, a Tampa, è invece partito il tour vero e proprio. Dopo alcune date in Georgia e in Florida, le prossime date saranno in Texas. Tantissimo il nuovo materiale potenzialmente promovibile. Negli ultimi anni sono infatti usciti ben 3 dischi. Il primo, a giugno 2019, è Western Stars, registrato dal solo Bruce, è un disco molto cinematografico e ne è stato tratto anche un film, dove il cantante suona il disco per intero con un'orchestra ad accompagnarlo. La seconda uscita è stata invece Letter to You, dell'ottobre 2020, grande successo di pubblico e critica, registrato dal vivo durante 5 giorni nello studio personale del boss. Il disco contiene anche 3 pezzi ripescati dal primissimo repertorio dell'artista e alcuni brani estremamente autobiografici, come ad esempio Last Man Standing, scritta da Bruce dopo la scomparsa dell'ultimo membro ancora vivo della sua prima band, The Castiles. Il cantautore del New Jersey riflette qui sull'età che passa e sulla sua eredità musicale. Il disco ha consentito a Bruce di raggiungere uno storico primato. È infatti il primo artista ad aver piazzato almeno un disco nella top 5 degli Stati Uniti per 6 decadi consecutive. L'ultima uscita in ordine di tempo è Only the Strong Survive, uscita a novembre scorso. Si tratta di un disco che contiene 15 cover di pezzi soul cari a Springsteen, registrati da Bruce insieme al suo produttore Ron Aniello, con la collaborazione degli E Street Horns, la band che lo accompagna sul palco. Ci sono anche 2 duetti con il cantante Sam Moore, che impreziosiscono ancora di più questo nuovo album. La dicitura volume 1 sulla copertina del disco lascia intendere che possiamo aspettarci un volume 2 già quest'anno. Sul palco della tournée vedremo ben 19 musicisti, boss compreso, che nonostante i 73 anni compiuti l'anno scorso, non si risparmierà. Le prime date sono infatti durate tutte tra le 2 ore e 3 quarti e le 3 ore. Del resto Springsteen è famosissimo per le improvvisazioni e per i momenti non programmati che popolano le scalette dei suoi concerti. Inoltre, come già successo per le scorse tournée, tutte le date saranno registrate e rese disponibili per l'acquisto sul sito dell'artista. Un souvenir davvero speciale per coloro che decideranno di andare ai concerti, oltre che un modo, per chi non è riuscito a comprare i biglietti, di sentire ciò a cui avrebbe potuto assistere. Ricordiamo infatti che le 3 date italiane sono già sold out da tempo. Oltre che per la nuova tournée, il 2023 sarà un anno importante anche perché Bruce festeggia i 50 anni dalla pubblicazione del suo primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey, uscito il 5 gennaio 1973, che contiene i singoli Blinded by the Light e Spirit in the Night. In Italia dovremo aspettare fino a maggio per vedere il boss, che si esibirà al Parco Bassani di Ferrara il 18 maggio e al Circo Massimo di Roma il 21 maggio, prima di tornare nel nostro paese il 25 luglio, quando chiuderà la parte europea del suo tour all'autodromo di Monza. L'Italia aspetta dunque a braccia aperte il suo boss.